ricordo sì di quelle lacrime lontane. Dico lontane perché io ora sto bene, anche senza di te, ma mi spunti fuori da niente. Dici di essere assente, invece tu sei presente ancora nella mia vita. Dici che ormai è chiarita, io penso non sia finita. Ma quale amica sta storia antica, ma mi alzo tutte le mattine con il ricordo sì di quelle lacrime lontane. Dico lontane perché io ora sto bene, anche senza di te. Mi alzo tutte le mattine con il ricordo sì di quelle lacrime lontane. Dico lontane perché io ora sto bene, anche senza di te. Ma dici che un po' ti manco, che ti piace pensarmi, ma non riesci ad amarmi, ma che vorresti tanto. Allora ti resto accanto e senza alcun rimpianto, nessun rimorso, non ti sto addosso. Io non ti aspetto, io non mi aspetto niente da te, perché è chiarita, sta storia è finita.